Prima edizione. L'informazione del mattino. Sono le 6, 15 minuti e 28 secondi. Brevemente ci sono le dichiarazioni del ministro degli esteri Giulio Terzi, che da Singapore in partenza per Istanbul, dove tra l'altro parlerà anche di Siria. Dice: la priorità in Siria è quella di portare aiuti ad una popolazione che soffre, a città distrutte come Homs, e far cessare questa tecnica di distruzione progressiva di ogni singolo centro che si è ribellato al potere di Assad. Parla anche il ministro Terzi della vicenda della cooperante Rossella Urrur in Algeria. Ho parlato qualche giorno fa con il ministro degli esteri algerino, dice, il quale mi ha promesso il suo personale interessamento. L'unità di crisi sta seguendo passo passo questa vicenda difficile. Sono operazioni che richiedono determinazione, volontà e un pizzico di ottimismo. La viabilità, ci ritroviamo subito dopo. Prima edizione. Le 6, 18 minuti e 24 secondi. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. Vediamo di darci un'occhiata alle prime pagine dei quotidiani e vedere che cosa ci troviamo, insomma, quali sono gli spunti, le aperture di questa giornata di oggi. E inizierei oggi dal Sole 24 Ore perché, come sapete, lo scontro resta in primo piano, lo scontro che c'è stato ieri tra le banche e il governo. Il titolo è alta, le commissioni banche in rivolta, il sì del Senato al maxiemendamento, il vertice ABI si dimette e Catricalà assicura modifica pronta alla Camera. Il Sole presenta anche tutti i dettagli sulle novità su farmaci, energia, assicurazioni auto, taxi e regia antitrust, si legge a Palazzo Chigi. Da segnalare che, come sapete, il Sole 24 Ore ha condotto un'ampia inchiesta nelle settimane scorse sulle difficoltà del credito, sulle difficoltà delle aziende ad ottenere il credito. Ebbene, adesso parte un'altra iniziativa nel dorso imprese e territori. Lo Stato non paga le lettere di chi rischia di chiudere, quindi sul tema anche fondamentale per le imprese dei pagamenti da parte dello Stato. In merito al decreto c'è un commento, un editoriale a firma di Guido Gentili che si intitola "Senza credito non c'è ripresa", a centropagina si parla dei dati che abbiamo fornito poco fa: lo spread a quota 308 e la borsa che vola, i BTP al 4,95% minimo d'agosto, mentre le banche spingono piazza affari. Si ritorna anche sul tema dei professionisti. I professionisti, ecco le proposte per rilanciare tutti insieme il paese: ampi servizi all'interno, sulla voce appunto delle categorie che si è espressa ieri nel Professional Day. E poi c'è anche la morte di Lucio Dalla, anche sul Sole 24 Ore, e ci fa piacere segnalare che, insomma, la scelta è interessante, perché oltre ad un commento scritto di Renzo Arbore ce n'è uno di Romano Prodi, il poeta di Piazza Grande, grande come lui. Questo è il titolo del commento di Prodi, che inizia così: negli ultimi anni Lucio Dalla era diventato molto profondo, quasi meditativo. Da quando sono rientrato a Bologna dopo la fine dell'esperienza di governo ci sentivamo abbastanza spesso. E così inizia il racconto di Romano Prodi. Veniamo al Corriere della Sera, che apre sulla TAV, sulle proteste contro la TAV. Vertice per la linea dura, il titolo. Napolitano teme infiltrazioni e Monti convoca i ministri. Cortei e blocchi si allargano dal Piemonte a Genova, Roma, Palermo e scontri a Milano. Commento in prima pagina di Marco Imarisio, si intitola "Isolare i violenti", e "Troppe timidezze, lo Stato batta un colpo", scrive Imarisio. A centropagina, grande foto di Lucio Dalla, una bella foto in bianco e nero, genio, ironia, addio al poeta della musica. Due commenti, due racconti, se vogliamo. Uno di Aldo Cazzullo, il titolo è tra virgolette, quindi sono parole di Dalla: "So di essere un omino buffo". E poi Mario Luzzato Fegiz, che racconta come nacque quello che è considerato il capolavoro, uno dei capolavori di Dalla, ossia Caruso. A centropagina, titolo ovviamente sulle banche, l'emendamento sui prestiti scatta la rivolta e lasciano i leader dell'ABI. Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella tornano a firmare un pezzo insieme di taglio basso per raccontare una vicenda calabrese. E il titolo è anche piuttosto divertente: 3 anni da precari per i bronzi di Riace, sdraiati nel palazzo del Consiglio regionale in Calabria in attesa del nuovo museo. Ben 3 anni. E questo è per quanto riguarda il Corriere della Sera. C'è anche un titolo sul ritorno alle Seychelles dei passeggeri della Costa Allegra. La Repubblica, l'apertura è su le banche contro Monti, spread a quota 300, borse su Merkel, brava Italia, a questo è dedicato un commento del vice direttore Massimo Giannini, scusate, non a questo in realtà, ma è dedicata alla parte politica, insomma, perché come forse avrete sentito, Silvio Berlusconi ieri ha detto nel 2013 grande coalizione. Bersani gli risponde: questo non esiste in natura. Casini apre e dice accordo possibile, e Giannini firma questo commento che si intitola L'OPA ostile sul professore. In merito alle banche, vi vogliamo segnalare, ci scuserete, forse siamo in fascia protetta, comunque la vignetta di Altan, c'è un uomo che si rivolge a Monti e gli dice: i banchieri si dimettono. E Monti che risponde: chi ci manca da far incazzare? Poi centropagina, titolo dedicato alla TAV: fermeremo i violenti. E soprattutto segnaliamo dalla Repubblica una ampia intervista, pagina 2-3, alla vigilia delle presidenziali, del direttore Ezio Mauro al premier e quasi certamente futuro presidente russo Vladimir Putin. Nella Dacia di Putin, io, l'opposizione e la nuova Russia, il leader alla vigilia del voto, non userò la forza con gli avversari. Naturalmente nemmeno vi devo dire che c'è ampio spazio dedicato anche a Lucio Dalla. La Stampa: TAV blocchi in tutta Italia e Monti convoca un vertice straordinario per oggi a Palazzo Chigi. Questo il titolo di apertura. Il commento di Lucia Annunziata in prima pagina è si intitola Un penoso déjà vu, e c'è un retroscena firmato da Federico Geremicca che riguarda il Quirinale: il colle attacco alle istituzioni. Napolitano: nessuna sottovalutazione. La Stampa ci presenta anche l'ultima intervista a Lucio Dalla, l'ultima intervista Io, l'amore e la musica. Ovviamente ci sono titoli anche sulle liberalizzazioni e la rabbia delle banche e la disoccupazione che è ai livelli del 2001. Una storia curiosa la racconta Carmine Festa, pagina 26 della Stampa. Ho fatto 13, 30 anni dopo, il tribunale gli dà ragione, la schedina non era una truffa. Questo per quanto riguarda la Stampa. Chiudiamo rapidamente con il Messaggero. Addio a Lucio Dalla, una voce per sempre è l'apertura, però il titolo forte di prima è dedicata ai Notav. Interviene il governo, blocchi e cortei in tutta Italia, Monti convoca un vertice di emergenza. Renato Pezzini, inviato, firma un pezzo dal titolo Il fronte unico tra centri sociali e casalinghe. Vi segnaliamo, vi aggiorniamo, il Messaggero aggiorna anche sulla vicenda dell'inchiesta sui vigili romani, doppia inchiesta sui vigili, Roma si indaga sul mercato delle licenze nel centro storico. Alle 6:26 chiudiamo questo spazio dedicato alla rassegna stampa. Ci ritroviamo tra un attimo per il giornale radio. Prima edizione. Le 6:32 minuti e 47 secondi, di nuovo una buona giornata da Simone Spezia, il momento di Italia in controluce. Italia in controluce. È il 2 marzo, una buona mattina a tutti da Daniele Biacchesi. Satisfiction, la prima rivista gratuita che rimborsa i libri consigliati che non rispondono alle aspettative del lettore e che propone inediti assoluti di grandi autori classici e contemporanei, rinnovata e finalmente con un nuovo editore. Satisfiction è sempre più una piattaforma multimediale, una rivista, il blog e ora anche il sito online da metà dicembre con inediti assoluti dei maggiori scrittori italiani e internazionali. Giampaolo Serino è il direttore ed ideatore di questa rivista, lo ha intervistato Adriana Fracchia. Quando è nata Satisfiction? Satisfiction è nata 3 anni fa, è nata sempre come Free Press, cioè l'unica rivista culturale in Italia, ma credo non solo, che è gratuita. E siamo al 13° numero, il 29 di febbraio uscirà il numero 14. Fino ad oggi è stato un trimestrale, dal 2012, cioè dal numero 14, sarà un bimestrale. Ricordiamo a chi non lo sa che il primo editore è stato Vasco Rossi. Sì, è stato Vasco Rossi che ci ha sempre sostenuto, ci ha sempre appoggiato, continua anche a farlo, insomma, perché è sempre un carissimo amico, e fino a dicembre dell'anno scorso è stato appunto l'editore, cioè colui che ha finanziato. Non abbiamo pubblicità, siamo gratuiti, appunto cerchiamo sempre dei finanziatori, tra l'altro un editore molto rock, insomma, chiaramente. E adesso si è conclusa, diciamo così, la collaborazione professionale, continua quella di ammirazione reciproca. Adesso da poco abbiamo iniziato la collaborazione facendo un altro salto rock con Fondazione Umberto Veronesi. In che senso un altro salto rock? Nel senso che passare dal rockstar allo scienziato comunque è abbastanza sui generis, ma a me piace fare queste cose, insomma, bisogna sempre rinnovarsi, insomma, bisogna rinnovarsi anche dal punto di vista dell'editore, anche se Vasco Rossi veramente è l'editore che io ho sempre sognato, cioè un editore che dà la massima libertà a tutti di scrivere qualsiasi cosa pur controllando tutto, ma in 3 anni non ci ha mai detto no a una virgola, insomma, anche Satisfiction, oltre a pubblicare inediti, recensioni soddisfatti rimborsati, cioè se il lettore non gli piace il libro che consigliamo lo va a acquistare, rimborsiamo il prezzo di copertina, ci ha sempre dato la massima libertà, per cui è l'editore ideale, insomma, solo che nella logica del tempo dopo un po' bisogna variare. Diciamo che poi ingrandendosi Satisfiction aveva bisogno di altre vie. Adesso abbiamo appena inaugurato il sito, il portale web, che secondo la stampa è diventato subito il portale di riferimento per i lettori italiani, è satisfiction.me. Stiamo riscuotendo un grandissimo successo, cioè abbiamo 150.000 visitatori unici al mese, certificato Google, dove ogni giorno mettiamo inediti, di Kerouac, abbiamo inediti di Salinger, di Zanzotto, cioè ogni giorno pubblichiamo grandissimi inediti. Dalle 8 del mattino alle 8 di sera facciamo la rassegna stampa, prima italiana, poi francese, poi spagnola, poi tedesca, poi dal mondo degli ebook, poi inglese, americana, tutto quello che riguarda il mondo dei libri. E la Italia in controluce, torniamo oggi con nuovi programmi, nuove storie alle 13.30 su Radio 24. Sono le 6:36 minuti e 33 secondi. Di nuovo una buona giornata da Simone Spezia. E adesso, prima poi di tornare a fare il punto sulla TAV, sulle proteste contro la TAV, invece vogliamo occuparci di due appuntamenti elettorali importanti. Sono quello di oggi in Iran, dove si vota, come vi dicevamo poco fa, per l'elezione del nuovo Parlamento di Teheran, e Mosca, dove si vota per le presidenziali. E lo facciamo parlando di tutti e due gli argomenti, perché le cose poi si incrociano su quello che viene definito lo scacchiere o lo scenario internazionale. Dunque saluto innanzitutto Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore a Teheran. Alberto, buongiorno. Buongiorno a voi. E saluto anche Antonella Scott, che è sempre inviata del nostro giornale, ma in questo caso a Mosca. Antonella, buongiorno anche a te. Buongiorno. Iniziamo dunque da Alberto Negri. Alberto, innanzitutto con che spirito ci si avvia al voto di oggi? O forse addirittura i seggi sono già aperti adesso, no? A Teheran. I seggi sono già aperti a Teheran, anche perché ci sono 2 ore di differenza, 2 ore e mezza di differenza con l'Italia, sono già le 9:15 qui, e cominciano lentamente l'afflusso, ma come sempre nelle elezioni iraniane si comincia a capire se effettivamente la gente affollerà le urne soltanto nel corso della mattinata e del primo pomeriggio, perché è un po' questo il primo interrogativo. È l'unico obiettivo in comune che hanno i candidati di liste rivali, cioè quello di portare più gente possibile a votare, perché questo è il motivo vero della questione, cioè qual è ancora il consenso di cui gode la Repubblica Islamica nel paese, in un momento di forte crisi economica, perché questo paese, dopo le sanzioni, c'è stato un forte crollo della moneta locale, del rial, sia sul dollaro che sull'euro, c'è stata una forte impennata dei prezzi. Insomma, gli iraniani sembrano, a quanto mi pare di capire da queste ore in cui sono qui, più preoccupati dall'economia che non dai risultati elettorali. Ecco, l'ultimo appuntamento elettorale, Alberto, che ricordiamo, come dire, portò a una discreta quantità di proteste, insomma, e quasi fece sperare in un ribaltamento della situazione in Iran. Dà la sensazione che hai, poi tu conosci il paese benissimo perché lo frequenti da molti anni, insomma, per mestiere, dalla sensazione che hai, c'è la possibilità di qualcosa di simile? Ma dunque, come sapete, nel 2009 qui ci fu il famoso movimento dell'Onda Verde a sostegno dei candidati dell'opposizione come Mussavi e Karrubi. Fu la primavera iraniana che anticipò di molto la primavera araba. Ecco, a distanza di 3 anni c'è da chiedersi che fine abbia fatto, ed ecco i risultati. Con una campagna forte di repressione e di censura, i riformisti sono stati quasi messi totalmente al tappeto, i leader del movimento Mussavi e Karrubi, insomma, gli arresti domiciliari, insomma, c'è un controllo a tappeto, una forte sicurezza, dispiegamento delle forze di sicurezza per evitare che ci siano manifestazioni. La stessa stampa internazionale viene attentamente controllata in tutte le sue mosse. Questo dimostra che comunque il governo di Ahmadinejad, ma anche Khamenei, coloro che controllano poi gli apparati di sicurezza dei Pasdaran, delle guardie della rivoluzione, le milizie dei Balsigi, non vogliono farsi sfuggire nulla, non vogliono che assolutamente ci possano essere dimostrazioni di protesta. Diciamo che 3 anni dopo la primavera iraniana sembra finita, ma ogni volta che si fa una previsione intorno all'Iran poi veniamo clamorosamente smentiti. Allora io passerei ad Antonella Scott, inviata del Sole 24 Ore a Mosca, invece, per il punto su queste presidenziali di domenica. Tra l'altro oggi Repubblica presenta un'intervista a Vladimir Putin firmata dal direttore Ezio Mauro, dove Putin dice credo nella democrazia, nella mia Russia non userò la forza, rispetterò l'opposizione. L'impressione, da quel che abbiamo visto negli ultimi mesi, è che alla fin fine siano parole queste, Antonella, no? Beh sì, queste occasioni in cui Putin si rivolge alla stampa straniera sono sempre il momento in cui lui presenta il volto che vuole dare all'Occidente, che però poi alterna con i toni, per esempio, molto diversi con cui ha scritto nei giorni scorsi un articolo ribadendo le accuse nei confronti degli Stati Uniti, per esempio, gli Stati Uniti accusati di essere coinvolti in questo movimento di proteste, quindi di ingerenze negli affari interni della Russia. In realtà sono proprio i due volti di Putin, che probabilmente continuerà a alternare, anche se in questa campagna elettorale ha accentuato quei toni che sa all'interno del paese gli possono portare voti, quindi il confronto con l'Occidente. Sui risultati mi sembra che non ci siano dubbi, naturalmente, vincerà lui ed è palese. Detto ciò, ci sono stati dei punti di criticità, cioè potrebbe uscire molto ridimensionato da questo voto, no? Questo senz'altro, sicuramente lui avrà a che fare con una probabilmente minoranza, anche se sarà, potremmo dire che saranno persone che sarà un movimento che non lo lascerà più in pace, non sarà più scontato come prima, non potrà dire che ha un consenso assoluto nel paese. Questo naturalmente poi vedremo domenica sera, sarà importante vedere la percentuale di consensi. In particolare ci sarà da tenere d'occhio Mosca, anche perché Mosca e Pietroburgo, insomma le grandi città, perché qui sarà molto più difficile intanto vedere brogli, quindi probabilmente il voto potrebbe essere abbastanza equo, trasparente nelle grandi città che sono più sotto controllo, e è previsto che il consenso verso Putin sia piuttosto basso a Mosca, e c'è chi dice, i leader dell'opposizione dicono, se lui non governa Mosca non potrà governare la Russia. Sarà molto importante, sarà cruciale la notte di domenica vedere come vanno le cose qui. Alberto, ti chiediamo anche, Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore a Teheran, ti chiediamo un aiuto anche a tirare le fila di tutto questo, perché ancora oggi Putin dice sull'Iran, sì, va bene, nucleare civile va bene, basta che sia sotto il controllo delle istituzioni internazionali, interviene anche sulla Siria, insomma questa sorta di debolezza di Putin, che impatto può avere su quello scenario, quello nel quale tu ti trovi? Ma io penso che qui si stia giocando una partita, insomma, di grande portata tra Damasco e Teheran, e si è visto molto bene quando si è cercato di trovare una risoluzione all'ONU sulla questione di Damasco, come la Siria si è diventata un po' una linea rossa sia della Russia che della Cina, non vogliono una replica di quanto accaduto in Libia, un intervento internazionale, e neppure che il regime cada. E qui il Teheran è strettamente collegato, come sapete l'Iran è un grande sostenitore di Damasco, l'Iran ha ottenuto sostegno dalla Russia, Pechino è diventato il maggiore partner commerciale, qui si parla di un interscambio di 30 miliardi di dollari, tutto destinato tra l'altro ad aumentare questi rapporti economici sia con Mosca che con Pechino, con le sanzioni varate sia dagli Stati Uniti che dall'Unione Europea, in particolare quelle finanziarie. Quindi si sta formando un asse già in qualche modo abbastanza evidente negli anni scorsi, cioè un asse che non si contrappone soltanto all'Occidente in quanto tale, ma che in qualche modo cerca di disegnare delle linee strategiche, no, di resistenza a quello che è il cambiamento. Certo, la debolezza di Putin, magari anche dei calcoli anche strategici, perché la difesa dell'Iran o della Siria da parte di Mosca e di Pechino comunque non prescindono dal fatto che sia Mosca che Pechino fanno anche dei calcoli, certo, molto più globali, cioè sono potenze che hanno dei rapporti con gli Stati Uniti, con il resto del mondo, quindi non è che possono in qualche modo sacrificare rapporti, relazioni internazionali ancora più importanti soltanto per sostenere il regime degli Ayatollah. Certo. Certamente le pressioni internazionali in questo momento fanno di questa l'area più calda del mondo. Grazie ad Alberto Negri, inviato del Sole 24 Ore a Teheran, e naturalmente anche ad Antonella Scotti, inviata del Sole 24 Ore a Mosca. Prima edizione. Le 6:48 minuti e 28 secondi, adesso gli aggiornamenti sulle proteste contro l'alta velocità in Val di Susa. Cristina Carpinelli, di nuovo, buongiorno. Sì, buongiorno Simone. È stata una serata e una nottata abbastanza difficile e tesa quella che si è svolta a Torino Bardonecchia sulla A32, perché c'è stato, dopo una lunga riunione dei Notav, un'aggressione a un giornalista, un operatore del TG3 nazionale della RAI. Dunque questo è il segno che sta aumentando il nervosismo. Ieri l'autostrada 32 è stata riaperta praticamente con la forza, ci sono stati scontri pesanti, un manifestante è stato arrestato, 29 feriti tra le forze dell'ordine, nessuno grave, e un numero imprecisato di feriti fra i Notav. Questa la versione data dai manifestanti. C'è stata una caccia inaudita, immotivata, senza nessuna forzatura da parte nostra, erano pacifici, c'è stata questa carica pazzesca, abbiamo diversi feriti, praticamente tutti della valle. Dopo la giornata di ieri, la scelta del movimento è quella di occupare centri importanti in tutta Italia, strategia che ieri ha già visto proteste sparse in tutto il paese. Ora, come era già accaduto per il movimento No Global, c'è tutta un'ala ambientalista non violenta che vorrebbe fermare in qualche modo la palla e ritornare a una protesta più costruttiva. Il movimento a questo punto deve scegliere, per ora la linea la stanno dando però i centri sociali, anche quelli più storicamente impegnati sul fronte TAV, come ad esempio a Scatasuna, uno storico centro sociale che sta guidando di fatto la protesta in questo momento. Per ora è tutto. E grazie a Cristina Carpinelli per questi aggiornamenti, che noi chiudiamo qua, prima edizione, che torna naturalmente lunedì con Anna Migliorati. Un ringraziamento a Peter Bescapè in regia, Viola Bottoni in redazione. Un grazie a tutti voi per l'ascolto da Simone Spezia, una buona giornata e ci sentiamo tra poco con il giornale radio.